sulleva gli occhi, per la testa una canzone, il sorriso sulle labbra, dispiegando un vecchio blu. Ma se tu in centro da per me non ho pensieri, anche se stasera suoni un bar, nelle tasche sulleva gli occhi, per la testa una canzone, il sorriso sulle labbra, fischiettando un vecchio blu. Passeggio in centro da per me, non ho pensieri, anche se stasera suoni. Nelle tasche.